Tempo di sport con Carlo Genta. Il sogno che ho. Si parla adesso Ranieri, che è stato in Inghilterra 5 anni, per dire buongiorno, no, good afternoon and good morning, per lui è stato un grande problema dopo 5 anni. Per segnare nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri. Siete voi che lo fate diventare fenomeno, per me è un buon allenatore. Ma va bene, vinceremo insieme. Quasi 70 anni ha vinto qua una Supercoppa, una piccola coppa. Vivirà, questa storia vivirà. Avrebbe molte più cose da dire di calcio alla gente di calcio. Invece evidentemente gli devo stare molto a cuore, parla spesso di me. Non mi importa a me quello che pensa, quello che dice, mi annoia. Continuerò nel sole, nel vento. La noia, non so cosa sia, conosco solo la nausea di Jean-Paul Sartre, filosofo, premio Nobel e appassionato di calcio. Vi dovevamo anche la risposta che mancava in audio di José Mourinho. Vieni Matteo Caccia, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Beh, onore al merito, non ti sei sottratto a questo secondo confronto di fila del venerdì, più tardi arriva anche Mario Boni. Beh, inutile che te lo nascondi, io mi sto divertendo come un pazzo. Ma questo è abbastanza chiaro anche, diciamo, dal tuo atteggiamento in redazione. Sì, capisci, sì, eh? Sì, è in onda soprattutto. Anche se non ho ancora capito, e lo chiedo a te, e lo chiedo a tutti gli interisti e non d'Italia e del mondo, 800240024, più Facebook e Twitter allacciati, più messaggi sms 349-238-6666. Non ho ancora capito se l'aggiustatore o il normalizzatore Claudio Ranieri piaccia agli interisti, ma in fondo non mi pare nemmeno questo il punto, perché mi sembra evidente che non è una scelta di vita nemmeno questa, è un ponte su un futuro che io ancora non vedo, in cui potrebbe esserci Guardiola, su cui c'è impresso in figo. Perché fai quella faccia lì? Ma quando mai Guardiola verrà sulla panchina dell'Inter? Anche perché poi devi prendere i giocatori. D'altra parte Moratti, se un allenatore non gli piace, i giocatori non li prende. Sì, diciamo che con Benitez ha fatto così e con Gasperini idem. E chissà chi prenderà o chi cederà a gennaio con Ranieri. Ma no, magari qualcuno glielo prende, perché a quanto pare Ranieri è una scelta di buon senso. Mi piace questa parola intorno all'Inter, che è tutto un programma. Ma perché Ranieri, guarda, la sensazione che mi dà Ranieri e che mi ha sempre dato è quella di un buon maggiordomo. Hai presente il maggiordomo di Batman? Sì. Quello che va da lui, lo regala Rizzo, magari deve prendere la Batmobile, faccia così, faccia cosà. Cioè, dà una vita normale a questo che di notte lo combatte i criminali e di giorno invece è un Bruce Wayne, è un miliardario. Ecco, mi dà la sensazione di un buon maggiordomo, Ranieri. È vero. Uno che sistema le cose negli spogliatoi. Sì, e anche le magliette di quelli che comandano, cioè Zanetti, Cambiasso, eccetera, eccetera. Vabbè, quello spogliatoio è un inferno, questo non è che lo scopriamo. Quello spogliatoio è un inferno, mi sembra che in mezzo a tutto questo la notizia vera sia una, cioè l'allenatore dell'Inter per la prima volta, Benitez non piaceva tanto, però non è stato scelto da José Mourinho, in contumacia da Madrid. José Mourinho che ha i suoi casini da sistemare. Questo è poco, ma è sicuro. Poco, ma sicuro? Ma sicuro? Ah, ma no. Senti, no, cosa no. Ha detto Ranieri oggi in conferenza stampa, la sua prima da nerazzurro, sentilo. No, io non vorrei cancellare nulla, cioè io credo che nella storia dell'Inter sarà indelebile Elenio Herrera, sarà indelebile José Mourinho. Eravamo nemici, ma eravamo nemici anche per i media, per alimentare quelle polemiche. Niente più, è un allenatore che ho sempre stimato, ogni volta che ci siamo visti in campo, fuori, a Nyon, ci siamo sempre salutati con molto affetto, tutto qui insomma, fa parte del lavoro di ogni allenatore difendere la propria squadra. Allora, se ti aspetti che faccia un commento io, no. Vai tu, ma come? Pensaci tu. No, ma io cosa vuoi che ti dica? Tende la mano a José Mourinho, non so se è più lunga la mano o il naso che cresce. Perché ti faccio sentire un'altra cosa. Ma invece, scusami, è come andare a Napoli e dire che San Gennaro non scioglie il sangue. Non sì. Puoi entrare in quello spogliatoio e dire che Mourinho non è una divinità. Il maggiordomo, bussa, chiede permesso. No, volevo farti sentire un'altra cosa, giusto per divertirci. Dai, dai, allora, finale di Coppa Italia, Ranieri allenatore della Juventus. Finale di Coppa Italia, Lazio batte Juventus 2-1, 2009. È stato anche allenatore della Juventus. È stato anche allenatore della Juventus. 2009, Mourinho aveva appena finito di parlare, ti ricordi quella famosa conferenza stampa della prostituzione intellettuale? Certo. A bordo campo, Variale va incontro a Claudio Ranieri. Senti. Devo chiederti una cosa su quello che ha detto oggi José Mourinho. Quanto ti hanno dato fastidio queste dichiarazioni? No, io non mi hanno dato fastidio. Era una cosa personale. Quando lo rincontrerò, se mi ricorderò quello che gli devo dire, glielo dirò. E invece un'ultimissima cosa. Il fatto che la Inter, sollecitata insomma a dissociarsi dalle dichiarazioni del suo allenatore e dalla tua squadra, ha dato pieno appoggio a Mourinho, che ha detto ha in qualche modo interpretato la situazione secondo il suo stile, cosa significa secondo te da uomo di calcio? Non lo so, questo spetta alla mia società, io posso soltanto dire lo stile Inter. Ma come? Lo stile Inter? Oggi era lì con una divisa dell'Inter, nell'altura, con quella cravatta, secondo me improponibile, ma queste sono solo questioni. Quella metà. Quella metà, orripilante. Sì, sì. Ma lo stile Inter? Beh, ha riconosciuto evidentemente uno stile Inter e ha deciso di farne parte. Non lo so, mi sembra veramente. Ma adesso ti faccio parlare anche con gli ascoltatori, ti faccio anche questo regalo. Poi arriva per completezza di compagnia anche Mario Boni, no? Con cui ci eravamo trovati venerdì scorso. Un'allegra briga dei compagni di merende interisti. Io sono giorni per me imperdibili. C'è il traffico? Non c'è il traffico, benissimo, parlo con gli ascoltatori. Simone da Modena, Lorenzo da Milano, 800 24 00 24. Simone, buongiorno. Buongiorno, io non mi volevo focalizzare la mia attenzione sulla diatriba che c'è fra Moratti e fra Mourinho e Del Neri. Del Neri perché? Sì, è finita. Anche perché è finita. Pare sia finita. Si dà conto da chi si viene pagati, no? Quindi ovviamente dà ragione a chi in quel momento paga lo stipendio. Sì. Ero con un mio amico giornalista qua con Giancarlo e stavo pensando più che altro cosa si aspettava Moratti, prendendo un allenatore con poca esperienza, cosa si aspettava? Che in due partite già potesse arrivare a livelli di grandi allenatori? O Moratti, caro Simone, dopo sentiamo Matteo Caccio dopo il traffico che adesso è in linea, però Moratti si aspettava solo di mandarlo via alla svelta, perché Gasperini era stato privato di poteri, aveva smesso di essere allenatore dell'Inter prima ancora di diventarlo, cioè pochi giorni prima della firma, quando Moratti disse Gasperini ma per piacere, non l'ha mai voluto, e si è comportato esattamente come tutti gli altri allenatori, con tutti gli altri allenatori che non ha mai voluto, da Benitez a Hector Cooper quando è stato confermato e poi mandato via subito dopo, allo stesso Lippi che a Moratti non è mai andato giù. Quando uno non lo vuole e aspetta il momento per liberarsene, insomma. Oh, c'è anche mio amico Mario Boni. Eccomi qua, ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao Mario. Ecco. Ciao ragazzi. Allora, sei contento o no? Molto contento. Molto contento perché ero rimasto scioccato dalla prestazione contro Novara. Sì. E anche stupito da come una persona intelligente, brava, ritengo anche brava, come Gasperini, avesse potuto così, dico distruggere, però cambiare una squadra che non aveva bisogno di cambiare, una squadra, è vero, in là con gli anni, un po' bolsa, però abituata con un cliché, giocare a difesa 4 e soprattutto uno Schneider che deve giocare dietro le due punte. Mm. Ecco perché sono contento dell'arrivo di Ranieri, perché è un uomo pragmatico e di grande esperienza e ritornerà a mettere il giocatore al loro posto. Sì, già l'ha detto Schneider, tra l'altro, ironia del destino, oggi si è bloccato in allenamento. No, Matteo Caccia, è inutile che mi guardi. Matteo Caccia allora. Matteo Caccia porta malissimo. No, ti prego. Ti prego. No, ma mica gli ha dato un calcio lui, si è fatto male. No, te lo assicuro, era qui con me. No, ma si è bloccato in allenamento e quindi Schneider... muscolare? Sì, pare sia una cosa. Così finalmente potremmo vedere magari Forlan in posizione di trequartista. Chi lo sa, dicono che è bravo anche come trequartista. No, ti prego, Forlan trequartista, come fai? Io so. Così ho sentito, sai, gli esperti non sono... Vabbè, adesso abbiamo un maggiordomo in casa, eh? Ci penserà lui a mettere in ordine le cose. Ma Matteo, ti piace o no? Sei contento di Ranieri oppure no? Ma questo io non riesco a capirlo. Io, guarda, per quando avevo sentito le varie ipotesi, l'ipotesi che preferivo era Figo in panchina. No. Sì, ma perché io perché ho una teoria tutta mia riguardo agli allenatori da mettere sulla panchina dell'Inter. che è poco sportiva, mm-hmm, ed è che devono essere di bella presenza. Grande, mi piace questa. Nel senso che gli allenatori dell'I, proprio perché è un posto infernale, perché c'è un presidente che è uno schizzoide ed è un folle, devi mettere una persona piacente, Mancini, Leonardo, figo, col suo bel ciuffo. Beh, anche Mourinho, dai. Ho deciso che non lo nomino più da qui ai prossimi 15 anni, Mourinho. Insomma, però una persona che poi dica quello che probabilmente faceva Leonardo, no? Sapete, sì, giocare più o meno al calcio, sì, trovate un modo per buttare dentro la palla, se c'è qualche problema sono qui e parliamo. È quello che fa Ranieri. È quello che però non è abbastanza bello. No, mi sembra anche una persona molto elegante. È un uomo di mezza età, un uomo di mezza età molto chic. Sai cosa? È che secondo me quelli che vincono hanno un'altra faccia. Infatti l'accusa che fanno Ranieri è quella di non saper vincere, no? Ti ricordi, vi ricordate i grandi tra Mourinho e Ranieri, no? Cosa si dicevano? E poi lui diciamo, è l'autore di quella frase che ha portato a sognare tutta una città, ma che era già, conteneva già il suo fallimento, che era: non succede, ma se succede. Non è successo. Non è successo, sì. Stiamo parlando di gatti neri. No. No, io però sono contento perché ripeto, l'Inter deve giocare in una certa maniera. I giocatori sono stanchi, vecchi, però se li fai giocare in una certa maniera ritengo che l'Inter possa essere sempre importante. Di fatto però c'è una corresponsabilità societaria, perché ha preso tanti attaccanti, l'acquisto di Zárate e quello di Forlán, ma non ha preso neanche un centrocampista, se al di là di Poli, che però è un ragazzino ancora infortunato. E d'altra parte non gli piaceva l'allenatore, dunque non gli ha presi i giocatori. Quindi, ma no, ma dai Carlo, quello... Ma come no? Ma lì è l'errore anche prendere Gasperini. Come fai a proporre un allenatore così talebano da voler insistere sulla difesa 3 con centrocampisti senza avere gli esterni che corrono e con facendo giocare in linea Schneider? È stato un progetto sbagliato fin dall'inizio, quello di Gasperini. No, ma poi tra l'altro scusatemi se io insisto sulla questione così fisionomica, ma quando vedevo i primi allenamenti di Gasperini a luglio, te ne avevo anche parlato Carlo, cioè aveva la faccia di quello che si guardava intorno e vedendo Schneider, vedendo, ahimè, Eto'o, aveva la faccia di quello che diceva: oh, ma sono veramente qui, cioè sono proprio l'allenatore dell'Inter. E quella faccia lì non andava bene, anche quando disse: darò il meglio di me. No, non devi dare meglio di te, devi vincere, perché sei, sì, allenatore di una squadra che deve vincere. D'altra parte io insisto su un punto: Ranieri è uno che già ha avuto a che fare con comunque grandi squadre, con giocatori importanti, continua a insistere sul punto che allenare una squadra di calcio e fare allenatore di una grande squadra di calcio sono due professioni totalmente diverse. Sì, assolutamente. Perché, assolutamente, no? Ma è a alto livello, ma è come nel basket, gli allenatori non sono più nelle categorie minore. Alto livello ci vuole un gestore, colui il quale è capace a dire la cosa giusta. Tu lo sai, Mario, che io ti ho visto mille volte quando l'allenatore di turno ti riprende la faccia che hai. Dai. Tu sai che io sono... È come quello che è successo, non so se vi ricordate, la scorsa domenica, quando Conte è andato da Krasic e l'ha preso di petto. Beh, io ero in trasmissione a Sky con Panucci e ho detto: io gli avrei tirato una testata sul naso, ecco, per come sono io. Perché in quel momento... A Conte o a Krasic, scusami? Avrei dato una testata a Conte, perché io da giocatore non... oltretutto non mi fai giocare, mi metti in panchina, mi sto riscaldando, pronto per entrare, in più vieni lì e mi stai sculfiato sul collo. Ecco, l'allenatore deve essere molto più psicologo rispetto all'allenatore, nel vero senso del termine. E poi la questione, no, che all'Inter da tanto viene fuori, dell'essere più che allenatore un motivatore, no? Nel senso, sì, che la testa è molto importante dei piedi, e l'Inter che vince la Champions League 2 anni fa lo dimostra. L'Inter non era più forte del Barcellona, non era più forte del Manchester United, però l'ha vinta. E scusami, non c'entra nulla, ma sto leggendo la biografia di Nadal, mm-hmm, e la cosa più onesta che dice lui in apertura di libro è: quando ho cominciato a giocare ho capito subito che Federer aveva molto più talento di me. Sì. Federer era più forte di me, per batterlo dovevo solo impegnarmi, solo lavorare e giocare sui suoi difetti. Quindi morale: all'Inter serve un badante che sia di bella presenza. Esatto, assolutamente. Conversazione telefonica è questo. Sì, un bel uomo che sappia dire che cosa fare e cosa non fare, o non troppo o non troppo poco. Mario, grazie. A te, a ti voi, abbraccio. Ciao, ciao Mario, grazie. Io continuo a divertirmi, così come vi sentivo parlare di Gasperini, e davvero sono qui. Poi alla fine il il polso dei tifosi, il battito dei tifosi porta a striscioni come quello di sabato a San Siro. Prendere Gasperini e volere che non giochi una difesa 3 è come andare a Mignotte e chiedere le coccole. No. Qualche striscione buono c'è ancora ogni tanto. Ivan Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Ascolti, io volevo fare un intervento, sono juventino, volevo fare comunque un intervento che mi godo un presente per quanto credo limitato, ma mi godo un buon presente. Volevo fare un intervento su Ranieri. Sì. E stavolta le devo dire che l'ascolto tutti i giorni, lei è il buon Garanzini, ma non sono d'accordo. Su primo cosa? Che trovo offensivo chiamarlo maggiordomo, gli dico la verità. Mm. Un uomo di calcio del livello di Ranieri che comunque ha dimostrato di essere sicuramente un ottimo tecnico. Sì. Poi c'è sempre la diatriba in Italia, vincitore o vinto vincitore. Bisogna sempre vedere con che squadre giochi e che uomini hai. Trovo un Ranieri che fa quello che ha fatto a Parma, assolutamente un vincitore. Trovo un Ranieri quello che ha fatto la Juve, assolutamente un vincitore. Sì. E lo si dimostra quello che è successo poi dopo il Ranieri. Anche quello che ha fatto la Roma però non ha vinto. Ma la Roma però giocava contro l'Inter di Mourinho e non ha vinto per un punto. Con una squadra che trovo che sia stata completamente cioè era comunque diversa rispetto a come l'Inter di oggi non è l'Inter di Mourinho, anche se è campione del mondo, si può dire quello che si vuole. L'Inter di Mourinho era un'altra Inter. Sì, l'Inter di Mourinho. Allora, questa è l'Inter di Mourinho che è finita, a parer mio, la notte stessa in cui ha raggiunto il suo massimo livello, il suo massimo trofeo. La notte di Madrid è finita questa squadra. È finita l'Inter di Mourinho ed è finita nel momento in cui della festa, in cui Milito chiede grosso modo più soldi, in cui Mourinho abbraccia Materazzi, piange e poi va via con la macchina del Real Madrid, in cui la Coppa arriva a Milano 50 anni dopo senza l'allenatore che l'ha vinta, quella notte è finita questa squadra. Io penso però che Ranieri con lo scudetto non l'ha perso contro l'Inter di Mourinho, l'ha perso contro la Sampdoria di Del Neri. Infatti avrei voluto vedere come ha salutato Pazzini ieri sul campo d'allenamento. Non vuole essere offensivo chiaramente il termine maggiordomo, semplicemente parlo della fisionomica, della sensazione. L'impressione. Senti, ma Mourinho ha parlato. Ancora? Strano. Allora, dichiarazione di Ora. Il Madrid è la cosa più importante, ma dei nerazzurri resto tifoso. Se l'Inter vince sono felice come tutti gli interisti e allora sia chi sia l'allenatore io voglio che l'Inter vinca. Beh, non potrebbe dire altrimenti. Allora, il mio amico Matteo Caccia che rimarrà con me un'altra decina di minuti prima di tornare a lavorare. Parli di Inter oggi? No, come io non parlo mai di calcio e di sport, a parte rarissime occasioni. Ne parlai il 23 di maggio. Ne parlasti il 23 di maggio? Sì, e del 2010. Costringo a parlarne in questi giorni. Tu volevi sapere com'era stato l'incontro tra Pazzini e Ranieri? Sì. Oggi ne ha parlato Claudio Ranieri in conferenza stampa. Dove sono stato c'è sempre l'obbligo di vincere per forza, perché se sono andato a Parma sapevo che era una situazione disperata e avevo l'obbligo di vincere, perché sennò la squadra sarebbe retrocessa. Andando a Roma con 0 punti sapevo che c'era l'obbligo di vincere, e poi ci fu quella cavalcata strepitosa che solo Pazzini mi interruppe. Disgraziato lui. Ma buon per l'Inter, naturalmente. Disgraziato lui, ma buon per l'Inter. Guarda, vedi, proprio tipologia del tifoso, mi sta già simpatico. Sì, eh? Sì, sì. Sì, no, ma è sì. La scelta giusta, rimane a domandarsi perché non quest'estate, quando si è fatto il giro delle 100 parrocchie, non si è spuntato il nome di Ranieri. Tra l'altro gli è stato chiesto anche oggi in conferenza stampa, mi pare. Gli è stato chiesto oggi, poi vi facciamo sentire. Gaetano, la provincia di Bergamo è lì da un po'. Buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Senta, io volevo parlare un po' della Roma di ieri e un po' del in generale. Sì. Io penso che a seguire Gasperini sarà proprio Luis Enrique, perché una squadra che gioca solo in orizzontale, non verticalizza. Non e finalizza. Concede al Siena 100 palle gol. Ecco, bravo, perché poi ti esponi automaticamente a questo. E nello stesso tempo giocatori anche fuori ruolo, secondo me. Perrotta fa il terzino destro. Eh beh, questo è evidente. Sì, Perrotta fa il terzino destro, come a Milano con Taddei e Perrotta che facevano gli esterni. È una cosa molto bizzarra, molto suggestiva. Vuole costruire il Barcellona partendo dal tetto Guardiola, Luis Enrique. Però lei dice seguirà Gasperini, non credo, perché la situazione, cioè l'appoggio che ha avuto dalla società e di conseguenza dallo spogliatoio mi pare qualcosa di diverso. È chiaro che insomma la Roma è una squadra in questo momento molto curiosa ma molto bizzarra, non è una squadra competitiva, e ieri sera ha concesso, ripeto, al Siena, a un certo punto sembrava Real Madrid, ha sbagliato 15 o 16 gol e poi alla fine giustamente ne ha buttato dentro uno. Gaetano, io la saluto anche perché è arrivato in linea un idolo di Matteo Caccia, credo, Evaristo Beccalossi. Grande Evaristo. Ciao Bec. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno Evaristo. Ciao, che buongiorno, ciao. Ti faccio fare la prima domanda da Matteo Caccia. Ah sì, da Matteo. Com'è Ranieri, Evaristo? Ma com'è, dai, non si scopre, credo... Bisogna partire forse da quando lui ha sostituito Spalletti, in quella fase lì, dove sembrava che una Roma non avesse più niente da dare, poi si è giocato il campionato in un Roma-Sampdoria che ha perso in casa, altrimenti vinceva il campionato. Bisogna ripartire da lì, perché noi siamo in difficoltà, un punto, una squadra che secondo me bisogna capire bene anche se si ha la forza di ripartire, perché anche a livello fisico c'è da lavorare molto, insomma, e soprattutto capire se qualche giocatore che ha dato tantissimo negli ultimi anni riesce a ripartire. E per quella fase lì mi sta bene, è una persona equilibrata e sa il fatto suo, però ci sono tanti se e speriamo che li risolva. Io prendo a specchietto appunto quando subentrò Spalletti, che fece quella rincorsa con la Roma che la davano tutti spremuta, che non c'aveva più motivazioni, che insomma era finito un ciclo, e invece arrivò a sfiorare la vittoria finale. Ma quindi però abbiamo deciso che questa è una fase di transizione per l'Inter, cioè quest'anno, magari anche il prossimo? Non lo so questo, anche se c'è un contratto biennale, se farà bene come fa a non rimanere, mi sembra anche giusto che rimanga, però nel calcio di certo non c'è niente, come si fa a sapere? Io credo che l'esperienza di Gasperini, insomma, tra l'altro cambiamento di moduli, è stata una parentesi sfortunatissima anche per lui, però nel calcio di certo non c'è niente. Io da osservatore così esterno credo che riuscirà con un po' più di equilibrio a tirarsi fuori da questa situazione, però ci sono tanti sé che mi preoccupano. Guarda Beck, io da non interista dico, a me l'Inter sembra una squadra abbastanza bollita da gestire gestire il viale del tramonto di questa squadra, tramonto che può essere anche dolce se vogliamo, perché resta una squadra forte, però è l'Inter di Mourinho che è arrivata a fine ciclo. Quindi... Io mi sono fatto un'idea, perché a qualche giocatore direi di usare meno le mani e più le gambe, però ho talmente stima di questi giocatori che hanno vinto tutto che chi è dentro deve purtroppo valutare queste cose, perché se io li prendo singolarmente lascio stare magari 4 o 5 che magari non è che mi facciano impazzire, però il gruppo, lo zoccolo duro di questa squadra, secondo me se danno quello che riconosco io che è andato, me la gioco alla pari con tutti, sì. Però questo va valutato giornalmente chi è lì a gestire i giocatori. C'è da dire che questo non è l'allenatore della vita di Massimo Moratti, nonostante i 2 anni di contratto, perché sappiamo bene, lo conosciamo bene, Moratti non voleva Gasperini e quindi in un modo o nell'altro non ci stava più dentro. Questo allenatore gli va bene come gli andava bene Leonardo, però mi sembra evidente che in testa ha qualcos'altro. C'è chi dice Guardiola, c'è chi dice Mourinho di ritorno, c'è chi dice comunque dovrà rifare la squadra. I due credo che siano quelli lì che gli sono sempre piaciuti. Chiaro che magari arriva Iosetti e dice io ne voglio cambiare 12. Perché Guardiola magari... no. Guardiola, Guardiola no. Guardiola 10. Magari tutti a 18, perché il suo credo calcistico è quello di gente che corre, che pedala, che copre bene gli spazi del campo. Facciamo la conta dei nostri, credo che quelli che vorrebbe Guardiola abbiano caratteristiche diverse. Grazie Beck, un abbraccione. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Ciao. Grazie Evaristo Beccalossi, che servirebbe a Ranieri, perché Snyder, pam, bloccato, trequartista. Ma per quanto? ma no, non lo so se è fatto male oggi, sei impaziente, non lo so. Scusami, non lo so, si è fatto male, ma non si sa, poca roba, dai Matteo. Peccato, perché leggevo che voleva ripartire da Snyder e da Pazzini. Certo, è vero. No, ha detto che gioca col difesa 4, non si discute, trequartista intoccabile sarà Wesley Snyder o domani chissà, Fornan non credo, e dice che Pazzini e Milito possono giocare insieme. Questo, su questo delle perplessità. Comunque, Roberto da Udine, buongiorno. Buongiorno, vi ascoltavo all'inizio, poi vi ho perso e sono ritornato. Fantastico. Risentimento all'adduttore della coscia sinistra, così Matteo Caccia in pace. Wesley Snyder, naturalmente. Notizie, no, questa è l'Inter. Questa è l'Inter, sì. Voi dovete capirlo, questa è l'Inter. Siamo tornati l'Inter. Allora, due osservazioni. Primo, il maggiordomo non è una diminuzio, perché poi insomma un buon maggiordomo è quello che comanda la casa. Sì, certo. È come certo. Il maresciallo o qualcosa, certo. Ma no, primo. Secondo, sono d'accordo con lei quando dice che l'Inter è finita a Madrid, ma è finita proprio, è finito lo spirito, Milito bisogna cacciarlo. Ma è normale questo, ma poi anche quel modo comunque di festeggiare la Coppa dei Campioni, assolutamente da Inter. Nella storia, quante volte avete visto un allenatore che non accompagna la festa della squadra perché è andato via con la macchina di un'altra squadra? Ma quando? Sì, è Mourinho oggi che dice lui è interista, spero che vada tutto bene. Meraviglioso, meraviglioso. Vabbè, ma le due cose che mi... è finito un ciclo, va bene. Però due cose. Primo, io ho visto un Inter stanca, cioè non sta in piedi, non corre. È stanca, non... è esausta l'Inter. L'Inter è esausta, per questo serve un allenatore, ed è Ranieri, che gestirà il declino di questa squadra. Che è stata talmente forte da poter vincere ancora in un campionato italiano poverissimo. Il viale del tramonto può portare addirittura allo scudetto, io credo, no Matteo? Non lo so, certo è che appunto il Milan al doppio dei nostri punti e ne ha due, quindi sì. E io credo comunque che la corsa la si faccia su quella, in linea di massima. Poi invece magari succede di tutto e Juve e Napoli tengono e arrivano felicemente alla fine, però se fai la corsa con il Milan tutto è possibile. Io non lo so, sicuramente la squadra è esausta già l'anno scorso ti diceva Mourinho li ha bolliti, Mourinho è un pazzo che li ha bolliti fisicamente e psicologicamente, non come ce la fanno, è stato Sacchi per il Milan e non ce la fanno più, però magari anche, chi lo sa, i carichi di preparazione sono stati particolari quest'estate. È vero che Gasperini non ne ha azzeccata una, cioè anche l'amichevole col Chievo nella giornata saltata, tre fischi, ha persa 3-2, sì, tre fischi. Matteo, grazie. Grazie a te, andare Carlo, a lavorare. A noi siamo qui, ci sentiamo, grazie. Dopo. Ragazzi, adesso parlo con Antonio da Roma, 800 24 00 24, numero verde, e poi voglio parlare come ogni venerdì un po' di basket, così insomma respiro un po' dall'argomento Inter, che riapriremo domani pomeriggio dalle 5 alle 6 con A Tempo di Sport, con i vostri interventi, con i vostri messaggi Facebook, Twitter e con tutte queste cose. Antonio, buonasera. Sì, buon pomeriggio. Senta, signor Genta, io diciamo questa volta non sono proprio d'accordo, e capita, no? Qualche volta di non essere d'accordo. È più divertente, su cosa? Io Claudio Ranieri l'ho visto nella mia Juventus, sono tifoso della Juve, e l'ho visto ancora più direttamente qui a Roma, è un grande motivatore, è uno in grado di rivitalizzare, certo, le persone, i giocatori, certo, e poi certo. Non è affatto un maggiordomo, perché... Lui, non deve essere preso come ha detto prima l'ascoltatore, di Udine, no? È quello che manda avanti la casa, non è un allenatore che ha vinto moltissimo nella sua carriera, è però un allenatore di grande esperienza, di grande buon senso, conosce il calcio, capisce e conosce i giocatori e la loro personalità. Dunque è certamente la persona più indicata per gestire la situazione. Lui stesso oggi ha detto normalizzatore o aggiustatore, ma è così, è una scelta di buon senso che andava fatta prima, probabilmente. Prima nel senso di quest'estate, invece nel giro delle sette chiese, dei 100 allenatori, non era stato nominato. Perfetto, è proprio per questo che io penso che ripartendo dal fatto che la gestione di Gasperini diciamo, sul campo ha dimostrato di essere fallimentare, con una diciamo, situazione tattica, una squadra diversa come la vuol mettere lui, io vedo questa Inter ancora competitiva. Poi la fine di un ciclo, bisogna vedere quanto dura una fine di solito può durare poco, può durare un po' di più. Questi sono dei fuoriclasse che secondo me, se messi bene in campo e rivitalizzati, sì, anche atleticamente, a mio avviso sono in grado, ahimè, da juventino, sono in grado di essere ancora competitivi. Nella pochezza del resto, certo. Ecco, è solo questo volevo dire, insomma, perché credo sia una delle persone più competenti che stanno nelle panchine di questo nostro paese. Sì, sì, sì, ma questo è condivisibile sul fatto che sia l'allenatore del futuro. Io non credo, perché l'allenatore del futuro, l'allenatore che è nella testa e nel cuore di Moratti, è un altro, ne sono certo. Non so se, non ho ancora capito se Mourinho o Guardiola, però uno di questi due. Grazie Antonio. Dunque, adesso vorrei cambiare argomento. Mentre vedevo Rudy Fernandez che schiacciava alla presentazione con la maglia del Real Madrid. Dunque, do prima un avviso ai naviganti. Avviso ai naviganti, miei amici surfisti, perché come sapete il mondiale di surf si avvicina dal 10 al 20 novembre nelle acque di Levanto, e domani vedremo tracce di surf e di surfisti addirittura a Milano nel quadrilatero della Mota. Guidati in questa biciclettata con surf, insomma, una sorpresa assoluta. Se fate un giro nel quadrilatero della Moda domani a Milano, troverete Sergio Muniz e una nutrita compagnia di surfisti. Ve la butto lì così, con grande, vi lascio incuriositi, insomma. Però voglio parlare di basket. Palla spicchi. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao cari amici sportivi di Radio 24, buongiorno. Arrivando le superstar. Gallinari nella vostra Olimpia è già arrivato, è pronto a giocare la prima amichevole, e Kobe Bryant a Bologna. Ma ci credi tu? Ma io ho qualche dubbio per le cifre coinvolte, l'assicurazione che ci vuole, stipendio per partita, però io pensavo che sarebbe stata una notizia di duratura, diciamo, due giorni, invece siamo a una settimana di questo ancora, e sembra determinati di fare qualcosa. Comunque complimenti, vorrei tanto vedere Kobe Bryant nel campionato italiano, perché in fondo di tutto sono un tifoso del campionato italiano, e quindi se lui viene qui anche per una partita vuol dire che il basket italiano conta ancora. Non è che poi magari arrivano tutte queste stelle, Gallinari compreso, poi vanno via a novembre o dicembre e rimaniamo tutti depressi? No, non penso. E penso che lasceranno qualcosa se vanno via a novembre o dicembre o gennaio, un riconoscimento della validità del basket mondiale, europeo, FIBA, quello che vogliamo dire, Eurolega, Serie A, la campionata greca, Lega Spagnola, a tutte quelle cose lì. Cioè, è un grande saluto parte loro per dire vi riconosciamo che questo è veramente, dopo l'NBA, il livello che conta nel mondo. Quindi certo ci sarà qualche adeguamento tecnico per tutte le squadre che perdono un asso così, però tutti sono preparati per questa eventualità, tutti, senza eccezione. Tu hai scritto sulla Gazzetta dello Sport dell'arrivo del Gallo a Milano. Cosa può dare Gallinari a Scariolo a tempo determinato, perché poi sappiamo tutti che andrà via presto o tardi, insomma, magari resta tutta la stagione, se il lockout diventerà definitivo e salterà la stagione, che è un'ipotesi plausibile. Allora sarà una stagione europea dei canestri indimenticabile in assoluto, forse la migliore di sempre. Yeah, tu però hai accostato l'arrivo del Gallo a quello di Bob McAdoo. Well, yeah, potevo anche dire andare indietro 5 anni dell'arrivo di Dino Meneghino o uno o l'altro, però quello più recente era McAdoo. Ho detto dai tempi di McAdoo, però ovviamente l'arrivo di Meneghin qui a Milano è stata una cosa eccezionale. Cosa può dare Danilo Gallinari? Innanzitutto è un giocatore completo, uno che sa francamente giocare tutti e cinque ruoli, cioè non è un pivot a tempo pieno, non è un playmaker a tempo pieno, però un giocatore in grado di fare un passaggio, un tiro da fuori come un playmaker, la penetrazione, molto bravo in queste cose, uno che sa giocare spalla canestro come un pivot, ovviamente sul ruolo è 3 alla piccola o 4 alla grande, cioè 4 alla grande molto tecnico, 3 alla grande alla piccola molto fisico, quindi poi un atleta, buon atleta, deve mettersi ovviamente nel grandissime condizioni fisiche per rendere come tutti i grandi giocatori. Però la cosa di lui, uno, DNA Olimpia Milano, cioè questa è la cosa, sì, che per me conta di prima, cioè lui ha giocato nella squadra, suo padre ha giocato per me anni fa nella squadra, cioè nel suo sangue, cioè lui non è un estraneo, certo, che viene fuori, lui, uno che veramente ha l'Olimpia, anche ogni sua parola che esce, lui dice Olimpia, certo. Armani, onorato. Quindi, uno. Due, un giocatore di squadra che sta lì per vincere per l'Olimpia Milano, che fa, l'abbiamo visto la passata per l'Olimpia, quindi uno che è anche un giocatore di squadra, passa la palla e secondo me aiuta ai compagni di alzare il loro livello di rendimento, quindi un giocatore che veramente può dar tanto. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Ciao amici sportivi, ciao a tutti. Un abbraccio coach Dan Peterson, e tra poco riprenderemo con i venerdì di Palaspicchi, dedicando per intero quest'ora al basket, e mi sembra che mai come quest'anno i temi interessanti e importanti con il campionato alle porte siano moltissimi. Tra l'altro un campionato di cui oggi conosceremo esattamente la composizione, perché come sapete ieri Venezia è stata di fatto ripescata in Serie A, e dunque oggi c'è la decisione della FIP sulla formula del campionato. Attualmente sono 17 le squadre che parteciperanno al campionato a 2 settimane dal via. Lo scopriamo, o meglio l'abbiamo scoperto ieri. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione e a Mauro De Angeli in regia con A Tempo di Sport. Ci sentiamo domani pomeriggio dalle 5 alle 6, vi aspetto tutti qui, ciao.